che una cosa brutta per esempio. Oh, non ce ne va vedere, mia mamma, la verità sta profumata, la verità sta pulita, la verità è pura. Non mi piace tenere una sporca. Quello che tipo ci cacchi nulla, dei bambini, di bucato, cazzo, deve stare pulita, la macchina è un abitacolo, ci stai dentro, ci viaggi, ci fai, cazzo. Io anche quando vado al mare, dopo l'annetto giù, l'aspirapolvere, l'annetto, a volte. Li metto il nylon per non sporcare di sabbia, io sono un bel pignolo in quella macchina. Anch'io sono così, io ci siedo i miei nipoti quando li accompagno a scuola e la macchina deve essere sempre pulita. Io ogni settimana me la pulisco, però adesso che non stavo andando neanche al mare e coso, è abbastanza pulita. Mi l'ho spolverata, stasera me l'ho spolverata. Che la gente non mi migliora e me la già spolverà da Trento. Ah, tornate Sofì! Non quella, l'altra. L'altra è la grande. Ah, quella che a Londra è sempre. Quella che a Londra è sempre a Londra, dovrebbe venire il 3 settembre. Ah, invece mi ha pilato il 12. Purtroppo quando sono lontano è uscito. No, la mia doveva venire il 13, doveva venire di agosto. Invece poi gli ha detto, ma se lavoro 13 giorni e poi bagoggia. Invece viene al 3 settembre, si piglia la macchina a noleggio e viene ai nonni. E vabbè, dai, già va bene, interessante il diritto intanto. Io oggi arrivi della patente inglese, mi è arrivata, che è anche europea. Ah, perché invece ma quella italiana non vale tanto? Con quella italiana pagava un sacco di assicurazione, di soldi di assicurazione. Con quella lì adesso paga di meno, molto, ma molto di meno. Ah, ecco, se sei italiano, non paghi di più. E invece c'è gente che l'assicurazione ce la fa fuori in Croazia, in Romania, che si paga di meno. Alla targa rumena, per dire se da Romania facile la sicurezza. Ma non conviene nemmeno, tanto tra una cosa e l'altra sarebbe un esempio di no. Vabbè, ma la gente che magari viaggia ci deve andare per lavoro, quindi. Ho le contatto una, se la pega secondo me la macchina, e ci ha fatto la situazione di. E mia figlia. Da 700 fan che pagava, adesso ne paga 250. Infatti il conto. E io già ne pago di più. Io pago più di 10 a 11. Solo che la macchina è a guida a sinistra. Ah, vedi sì, mamma mia, come ti cattivo vai. Raggi di tutto. Se ti abituati a questa macchina, anche hanno abituati anche da che devi pigliare con la guida nostra. Oh, yes. E beh, ci sarà la differenza, no? Sono fatto un invertito, mamma mia. No, io non mi trovo lì, penso. Magari portarla non mi trovo. Infatti stanno cercando di imparare a portarla. Stare lì un pochettino, però ha detto che è feo. Ah, oggi dopo pranzo mi stavo rilassando dalla poltrona in sala e ho sentito il rumore di giardina. In casa non c'era mio figlio, gli altri non c'erano, non dovevano aprire il coso, quindi mi sono aspettato, mi sono alzato, perché mi ho lasciato perdere un attimino, poi ho sentito di nuovo il rumore di giardina. Cercando di raggiungere e il cane era vicino alla porta, però non abbaiava, il cane è l'occhio, non abbaia, ti salta addosso quando io. A questa ho guardato, il cane è sceso, come è sceso ha fatto rumore e non ho più visto nessuno. O si è abbassato, oppure se ne è andato, sicuramente. Ma sai cosa ha fatto il mio? Sentivo delle voci nelle scale, no? Andavamo al secondo piano, ho preso un mollato il cane, da sopra si era fatto andare al terzo piano. Sono andato i carabinieri, sono giunti i carabinieri e si erano prelevati. E fatto. eravamo scicati. No, l'ha fatta rimanere in chivi. Figlia Rugani, venezia, figlio Rugani. Se ne posso trattare quel pezzo di goccia, amici di Biaggi. Altrimenti ci sono fatti, quando sono giunti i carabinieri. Dice adesso lo lasci a noi, non fa nulla al cane, non si preoccupi, ce l'ha con loro, ce l'ha. Ah no, lo porti via allora, lo sai, non rimaniamo quel pezzo di guscia. Secondo cos'è? Che non li conosci, ma si chiede a Muraiti. No, ce l'ha con i cosi, con questa gente qua ce l'ha, che hanno gente che non conosce, allora si punta. E se si va di andare dal Sobbiano? È fatto benissimo. E dopo il giorno dopo lì verranno più. Sì, ad abito una giusta che si bigliani. Se si buttano sopra, desarrano a rubuggio e decene tutti a colpi. Sì, ti fanno cantare, non so vedo di te, con un capo di un uomo. Ma ti piace così, a carità, è meglio che sono su Tarreggia, ne dici. Allora, tempo fa c'era uno che telefonava da Piazza Castello e faceva arrivare ambulanze, pompieri, polizia, e non capivano chi era. Un giorno cosa hanno fatto? Hanno messo un'auto civetta dove si fermano i tassi. Ed era questo qua che chiamava dalla cabina telefonica. E quando loro l'hanno sentito, ha detto guarda ci ha chiamato di nuovo il tipo. Ah, ha detto la cabina, aspetta che lo prendiamo, cazzo, sono entrati, l'ha identificato, si è caricato in macchina, l'ho portato in caserma. E ha detto, il militare è fatto, no, adesso comunque ti facciamo marciare noi. Quando lui diceva, oh, noi tu devi marciare, cazzo, sono messi tutti in fila, e questo l'ha raccontato lui, sono messi tutti in fila, cazzo, che diceva, oh, quel passo, lo vediamo la parte di lì, che quando passava andava a vedere la parte di lì. Da poi l'hanno impegnato un capo, ti l'ha entrato, gli ho detto a un capo, e hanno detto, cazzo, non sono degno di te. Di quello te lo posso dire anch'io, perché con l'ambulanza sono arrivato lì io e che facevo il volontariato la sera, ero libero e facevo il volontariato, insomma arrivati anche io, non verrà nessuno, chiamata persa, l'hanno dettato, già non so se di questo ho fatto. O chiamavano dal coso, dalle cabine nel taxi. Quando loro non c'erano, prendevano il telefono di taxi e telefonavano da lì. Infatti noi ci avevamo preso il numero di telefono, quando ci appariva quel numero manco rispondeva. E con chi eri tu? Perché io facevo seguito ambulanza? Allora, l'ho fatto con l'Avis, l'ho fatto con cosa? Con la Croce Rossa, per un po', poi l'ho fatto con il 118 anche. Infatti, mi hanno quando c'era il Covid e gli ho detto che avevo la patente, il patentino scaduto e non ne facevo più. Mi hanno fatto 3-4 volte, mi hanno chiamato. No, non ci vuole più il patentino. Io ce l'avevo, cioè, il patentino veloce, quello per la guida di mezzi di soccorso. No, non ci vuole più, ci vuole la B normale. E praticamente ne ho fatto 14 anni, sono stato la Croce, la vecchia Croce, quella che c'era via Pitunica, poi sono stato l'Avis e poi sono stato al CISO tanti anni. No, aspetta, io ho iniziato con il CISO prima qua a Sassari, poi ha chiuso e me ne sono andato con la Croce Rossa, me ne sono andato. E poi ti sono riuscito Grugoso col 118. Ne ho fatto un bel po' col 118 e poi ha detto, boh, basta, non ha più gana. E non ci sono andato più. No, non ha chiuso, si è trasferito via Pilarmente, ci sono io, ero la Feroce, io con Ciso ci sono da quando era dove c'è l'ufficio, come si chiama, l'ufficio di collocamento lì. Io sono stato lì, da lì ho cominciato, probabilmente noi ci conosciamo allora. Ma quando abbiamo iniziato qua a Sassari col Ciso, eravamo in via Catalocchino, erano arrivate due ambulanze, due ambulanze a seconda mano, ma le ciotti, lotte 50, non so, quella lì è un'altra ambulanza. Con quella lì ho iniziato, poi piano piano a Sarrado, anche non so cosa è successo, e l'ha presa il coso, l'ha presa, che non mi ammetto come si chiama, nel manco. Giancarlo Solino. Sì, Giancarlo Solino se l'ha presa. Ma va detto se, ah, ha detto no, no. Ma lì era andato anche con il coso. No? A ultimo sono andato a 118. Mi sono fatto un bel po' con 118 e mi ero da buiaggio mullato tutto. Giancarlo Solino c'era anche Cipino, sai? Sì, infatti no, ero con lui sempre. Eravamo assieme, poi a lui ha mollato e noi siamo rimasti. Sino a ultimo sono rimasto, ci siamo rimasti in tre. Ma buon'anima. C'è anche Agostino, tutti e due ce ne sono andati. Infatti c'era anche Agostino. Cosa? Siamo rimasti io, Bacchisio e Giovanni La Friccia. Me lo ricordo, mi sembra che una volta scendendo a San Gambino mi avevano fermato perché eravate armati, non so che cosa, erano fermati i carabinieri. Sì, ma di cosa? Ma di baracchino era, mi basta. Meno male che conoscevano a Giovanni. Carabinieri? Sì, conosceva a Eddie. Infatti gli avevamo presentato la licenza con tutto quanto. Non se ne è fatto nulla. Dice andate. Ed erami alla manifestazione, erami. Io San Gambino l'ho fatto, la dice di San Gambino lo faccio tutti gli anni. Tutti gli anni, adesso dice che non c'è più nessuno, ma allora niente di più. E poi c'è, hanno immullato tutto, hanno immullato. Il so che lo fanno quelli dei ragnamaturi, lo fanno. No, non c'è più nessuno. Praticamente noi, quando ero con Ciso, c'era Ciso di Porto Torre, ci eravamo collegati con loro, gli dicevamo quanti gruppi mancavano per l'arrivo, eccetera, eccetera, dove si trovava l'ultimo gruppo, perché noi avevamo le rover che faceva la scuola, saliva e scendeva, per vedere i gruppi, quanti ne erano rimasti, eccetera, eccetera. Poi avevamo due ambulanze che facevano la sosta in ogni... punto, partiva una e arrivava l'altra, capito? L'altra andava più avanti e si fermava quella che c'era dietro. Facevamo le soste per lo scambio. Così sì. E se no non ha già fatto la cavalcata? No, io cavalcata non ne ho mai fatto, li vedevo però non ne ho mai partecipato. Io vedevo sempre la breccia, c'era, quelli vecchi, proprio quelli Bacchisi, mi pare. Tutta questa gente che adesso non vuole altro nome Battiglio, sì, però la breccia non l'ho più sentita. No, non c'ha più nulla, c'ha gli apparati, però non c'ha antenna. L'ho preso. Oh, facevamo anche pubblicità, facevamo, coso, come ti si chiama, la sassa di Ogiro. Gappa, sì, va bene, abbiamo fatto anche noi molti servizio con Ciso. Ma erano divisi un po' CB e Ciso da un'altra parte, capito? Però già eravamo coordinati abbastanza, quando ci facevamo quei servizi eravamo coordinati abbastanza. Poi è morto Giancarlo, quanto ne hanno detto, quanto ne hanno fatto, tanto è morto lui e ha morto anche il Ciso, insomma. Era più grosso di quello di Porto Torre, se addirittura io ho avuto anche l'incidente con la mulatta di Ciso dietro, via l'Italia, via Mendola, lì ci ha preso una macchina, è uscita da dietro le macchine, ci ha fermato per farci passare, si è pigliato, si è tutta rubato e ci ha fatto capottare. Ce l'avevo sentito quello lì, sì. Purtroppo ci sono sempre che tengo la radio tutto il volume e non ascoltano quando si passa l'ambulanza. E appunto questo ha detto che a la radio non c'è sentito, era un ex carabiniere, ma i carabinieri hanno detto anche se è un ex collega non ce ne frega nulla, lui si prende la patente, si prende. E niente. Infatti poi hanno dato il 50% perché noi eravamo sì con le sirene, ma siamo passati con il rosso, visto le macchine che si erano fermate, avevamo due sirene, questo è riuscito dietro la fila delle macchine e si è abbigliato in piedi. Ma come è già Fabio Rubizio di rallentare i semafori. Entravo, sì, però piano piano ti baciavo, non mi buttiani a me, hai andato visto che ti sei del gozo. Ha detto, oh, boh, boh, dai, aspetta, aspetta, entro piano ai semafori. No, che tanino mi fanno l'estate, non stavo guidando io, di solito guidavo qui, ma il giorno stavo guidando lui e io stavo massaggiando dietro una paziente, capito? Stavo facendo il massaggio cardiaco, sai tutta roba addirittura dalla luce, non sbaglio più con presunto, aggiungisci di notte al rubinetto, il lavandino che c'è, ho sbattuto la gamba, infatti ci avevo di brace fratture nella gamba. Cazzo, purtroppo, ma da già non dici, mezzo troncato non dici, io... Ho visto una volta sono andato all'incrocio della morte, avevo visto un incidente di Gitu fino a via Rugabbo. Mi sono messo in chibi, tutta la dieta c'è Rugabbo. A Rugabbo c'era a 40 metri zira. Io ho fatto quell'incidente, quello che è successo a San Giuseppe, te lo ricordi? Tre si è ferito un morto. Ah, cata, quello lì, quello io già l'ho saputo, cata, quello era proprio brutto. Un uomo ci ha detto che era tutta la notte in giostra, che siccome aveva parcheggiato male la macchina, mi ha detto che c'era un po' in fumo, aveva paura che gliela toccassero. Sentiva questa macchina che sommava tutta la notte, poi abbiamo trovato questo radiolo dentro la macchina spaccato in due, adesso c'era musica tutto brutto. Arrivate, c'è proprio la Croce Rossa, io ero con mia moglie e un altro barettiere, io stavo guidando, è arrivata la Croce Rossa, solo l'autista c'era, e il carabiniere ha detto, una di voi vada con la Croce Rossa che non c'hanno barettiere, e ci ha mandato a mia moglie che era alle prime armi, ha detto, alzo subito lo sciocco, questa che si alzava, ogni tanto ha tutta la faccia tutta sporca di sangue, si metteva a gridare, poi è arrivato all'ospedale, dice a quella guardia di ripidare, ha detto che, ha detto, dov'è il mio ragazzo? Ed era quello che era morto il ragazzo, ha detto, il tuo ragazzo è morto, in cielo adesso, tanto è tutto il sicchio questa qua, oi oi oi. Oh, incidente gli hanno giuito quei, ma come te dice dell'incrocio della morte, fa fare dai. Cattare, prima abbiamo preso il corpo, abbiamo buttato una base, a poi si è buttato il rubo di sotto, mi dice, caspita, ma come facciamo qua? E qua ci vuole qualcosa, ci vuole per cercare. Ma non è mica vero, no, che sei umano. Certo, abbiamo buttato tutta la dicendo, la poi l'ultimo a 40 metri di rave Maundi. Ma è morto, Era la moto con la contro la macchina. Dico, questa macchina c'è posta stanno piano ai cini, la moto è arrivata a tutta velocità e c'è tutto. Certo. Ogni scontro è una pessima un capo. E c'aveva il casco. C'avete trovato la testa con il casco attaccato? C'è sci da 40 metri di uscito. Lo capo con un casco. Ha detto, magari che rubigliava. Ci sei preoccupati, ne? Ci siamo, non volevamo 30 la busta e ci buttiamo un para a Rugoi. Così abbiamo fatto. Io ho visto tante cose, ma come una che mi ha impressionato e non l'ho manco mangiato a casa. Di solito avevo sangue freddo quando stavo facendo quel servizio, poi a casa magari ci ripensavo e cose. Il uomo a San Giovanni, cieco, che viveva con il figlio, no? E usciva a prendersi il fresco, lui abitava una casa bassa e lo vedevano gli altri quando usciva a prendersi il fresco, poi si comprava, il figlio gli comprava scatolette, questo e quell'altro per mangiare. Poi il figlio se l'è partito fuori e l'ha abbandonato. Questo aveva continuato a comprare scatolette, non voleva farsene portare. Solo che le avanzava, lui le lasciava, non sapeva dove buttare, le metteva in questa busta e si, la lasciava per vedere avanti della canna, hanno fatto i verdi e lui dormiva, cattericciando se addosso, e l'hanno fatto i buchi, ci prendevano le ossa, una punta non si poteva stare, poi i carabinieri poi si è buttato odorante che si è peggiorato la situazione, un fiato. Di qua un morto ce l'ha presente, c'aveva i buchi, cazzo, io non avevo mai visto una cosa del genere, dietro l'orecchio, nello stinco, l'abbiamo abbassato la carta perché sentivamo dolore, abbiamo abbassato la carta e c'era un buco che si vedeva tutto l'osso. Ma da cosa? No, no, io da cosa non l'ho mai visto. Con il 118 che siamo andati a Coso, su a Osio, che era a Vogo, che c'era questo qua, era rimasto dentro nel fuoco carbonizzato, e quello lì siamo andati un caro oregano si pugliassa ed è morto, bruciato, era carbonizzato, e con i pompieri che l'hanno tutto quanto spento il fuoco e tutto quanto, siamo andati a recuperarlo. Ci ha aiutato i pompieri, ci hanno aiutato a portarlo fuori. Via, già mi ha fatto pena quella pecora che gli hanno bagnata perché era ancora viva. Ma non le viste le pecore, cazzo, rimanevano ferme come erano, non si cava a uscire. Stavano camminando, quindi rimanevano bloccate. Quella lì era ancora viva, gliel'ho buttato la qua sopra per farla soffrire di meno, no? E cazzo. Mi ha fatto pena vedere quella figura di cristiano, uia, località. No, io già ne ho visto anche, ho visto gente piccata, ho visto, e l'abbiamo anche rianimata, era ancora a caldo, ma non ce l'abbiamo fatta. Sì, uia, ho visto tutti i colori, ganna, ho visto. Beh, c'era il coso che per fortuna che animali non ce n'erano lì. No, gli animali per fortuna sono riusciti a scappare tutti quanti, sono andati alla parte di giù, sono andati dove non c'era fuoco, riusciti in chivi, ecco cos'è. Ci manca rimasto un padrone, ancora peggio. E comunque facendo quei servizio lì, ti rendi conto di tutte le scale della vita, dal più ricco al più povero, al più povero al più ricco, da più piccolo al più grande, le persone anziane, eccetera, eccetera, vedi tutte le scale della vita. Infatti. Poi ha già cominciato, quando avevo un dopo un anno ha già cominciato, boh. Ma domani cominciano a venire più io. Ecco, mi dice, oh, aspetta che entrano quelli nuovi, un altro paio di giorni, no, tu mi dici un altro baggio di lì, e mi dice, ne rimani ancora. Infatti un paio di giorni sono resistito, poi me ne sono andato, boh, ho detto, boh, basta, non vado più, è meglio dormire a gira. No, a me mi ha dato da pensare... Mi ha dato da pensare dopo che ho avuto l'incidente, mi ha chiamato mia figlia che era piccola e ha detto, papà, ma stai venendo a casa? E gli ho detto sì, adesso fra poco arrivo, che ci hanno tamponato con l'ambulanza e ci stiamo scambiando i documenti e poi vengo, poi c'è tutto la data che è tutto basciato, tutto questo male, tutto via. No, no, io che andavo giù tu, boh, 2D, ha già resistito 2D e boh. Non penso che andato più, ha detto boh, basta, da oggi ho finito il mese, basta così, non è, mi devo riposare anch'io, che lavoro, io me ne alzo presto la mattina e a me non manda più, no? Aspetta, se no Romanzano andavo, povero me. E io facevo anche notturni, la domenica facevo sabato e domenica, notturno, dal sabato alla domenica. Le cose che succedevano facendo i notturni, allucinanti, gli incidenti che c'erano. No, io non lo potevo fare perché stavo lavorando, entravo presto la mattina e il notturno non lo faceva. A posto mio lo faceva un altro, lo faceva questo qua, e se lo faceva lui se lo faceva, tanto era pagato. No, da noi erano volontari, non ha pagato nessuno. Erano tutti volontari. Per l'antincendio qualche cosa gliela dava per comprarsi la roba da mangiare quando stavano fuori, capito? Queste cose qua sì, ma dall'antincendio si pigliava un bel dinamo, 30.000 euro a stagione. Quello sì. Quello sì, purtroppo non ha giudizio, è tutto rigoroso, non ha giudizio io. E davvero io, cosa del 118, addestravano anche ragazzi per l'antincendio, addestravano. Una divisione che andato io a vedere come ti funzionava. Non ha giudizio, anche se con l'idrante si giugavano. Faziana, da bandierina a Faziani. Tu l'hai visto, io l'ho fatto la PC, con gli atomizzatori sulle spalle, che erano anche pericolosi, che se ti guidavamo con l'atomizzatore, guai. No, sono andato a vederli, solo a dormire, l'ho visto, me ne sono andato, mi vedevo l'ambulanza e sono tornato in Darido, io, ma ci si vedeva anche sui giugelli, sì. Faziana, la bandierina con l'idrante, che andava a Bria. Io una volta, tanti anni fa, c'è stato un incendio un bel grosso e c'era un caldo, non so se non si poteva stare. E detto a mia moglie, io che andiamo a farci un giro al vero, così almeno prendiamo un po' d'aria buona. Stavamo andando al vero, che abbiamo trovato il fuoco che attraversava la strada, tutte le campane incendiate, non sapevamo se passare o non passare. Il fuoco attraversava la strada, pigliava da un albero all'altro, c'erano i pastori con i bidoni cercando di, e con un trattore che ci aveva l'atomizzatore, cercando di spegnere l'incendio, ma allucinante qua. Certo, abbiamo attraversato, ho rischiato perché il fuoco passava la strada, ci sono passato sopra al fuoco. No, io un giorno che stavo tornando da Olbia, vedevo il fuoco sulla strada, mi sono avvicinato ai pompieri e ho detto no, aspetta, adesso ci spegnere, almeno quando vediamo che non c'è più il fuoco nella strada ti facciamo passare. Allora mi sono fermato un'oretta, mi sono confermato, hai detto boh, cioè, sono tutto ripreso a camminare. Beh, se ti si attacca alle ruote, tanto ti dà con la macchina, mi annusare che riesco a dire in corso, basta che trovi una bottiglia sciolta, cosa che ti si attacca alla ruota. Infatti, stavo tornando con la paziente, stavamo tornando da Olbia e ci siamo fermi un'oretta in Chivi e ci hanno passato acqua e bottiglie d'acqua e ci siamo fermati, un'oretta ci siamo fermati. Sono buttato un capisci abitato a passare, se mi pensava basta che trovavi una plastica bruciata, risciolta, mi si attacca la ruota piglia il buco e piglia proprio la mano. Infatti così, no io non me lo sono rischiata, mi sono confermato che mi era tirato tutto, allora il pompiere ha detto adesso potete passare, l'ambulanza la facciamo passare per prima perché c'è fretta. Infatti uscire tardi, ma ne vado a far prima e a giudire da Danazzi. Io alla media di 80-90 siamo arrivati all'ospedale a Sassari. Mentre sono arrivato io sono caricato il paziente, subito ho portato su, posteggiato l'ambulanza. Io arrivederci. Ah, giù venendo di travagliare pure la gira. No, a me mi piaceva molto, io tutto preso, mi piaceva in una maniera che dovevo stare alla scelta, a volte pensavo qual è meglio, cosa è meglio fare, cosa è meglio non fare, eccetera, eccetera, però sceglievo sempre quello, sceglievo sempre di fare seguita buona perché mi appagava come si dice. No, poi l'indomani quando sono rientrato c'è da andare a Ozieri, allora faceva il dutto di io, mi si tirava una base, ande danditi, e mi faceva solo quello di Sassari io. A noi ci chiamava l'autorimessa per non andare loro, cazzo, si chiamavano a noi, loro busati, chiamavano a loro per non andare loro, si chiamavano a noi, capito? A me una volta mi hanno fatto andare, ero in ferie, mi hanno fatto andare su a Genova, mi hanno fatto portare questo paziente qua a Genova. Ma mi sono rimasto due di più, sono rimasto in Chivi. Ah poi che hanno seguito un rado, sono dovuto rimanere in Chivi, mi hanno imbagato che c'è due di me, l'hanno imbagato. Oh yeah. No, io fuori così non ci sono mai andato, fuori nei paesi sì, anche di notte, anche di notte sono andato dopo in una montagna nel Morese, siamo andati a portare un paziente che non aveva fatto la buccia. Sì, se sei tornato passato? Ah, purtroppo. Così è, così sono rimasto. Dopo mi sono traccato e sto a rivedersi a tutti. Infatti, quando veniva di Travaglia me ne vedi tornavo a casa. No, io mi avevo fatto lì di amicizie, il sabato facevamo sempre le arrostite, c'eravamo un po' di tutto quanto, ma un bel mano lì, in una carriola, gli aveva fatto questo volontario l'aveva fatto un bel grasso, infatti. C'aveva i fianchi, c'aveva due cricche e si sollevava. Quando la carne si stava per bruciare, lo mangiava, lo sollevava due cricche. Certo, ma l'aveva visto. Purtroppo sì. Già è così, sì, ormai queste cose, tempi passati. E non vi penso ne manca queste cose più. Cerco di rimanere lontano. Io ogni tanto ci penso, lo sai, quando vedo un'ambulanza mi vengo lì qui, non sento proprio bene. Ogni tanto ci penso, adesso che non sto lavorando e cosa, ci penso ogni tanto. Magari anche un luogo per socializzare, per cercare di trovare nuove persone, capito? Sì, ma sai cos'è? Che quando li vedi passare, così ero io, ma manco vi penso più, mi sono arrabbiato e non ne voglio più sapere. Ma tu quanti anni ne hai fatti? Io ne ho fatto 17 anni qua. Allora, fai 8 anni alla 118, poi un 6 anni con il coso, ma non me la metto più. Vabbè, un 6 anni lì, 3 anni l'ho fatto con la cosa, con la circolciso, che da poi sarrato. Da lì me ne sono andato all'Avis. No, il ciso non ha salvato, dava vita dal collocamento e è andato via Pirandello, dove ci sono i campi comunali. Ma quando abbiamo iniziato noi, era in via Catalucchino, siamo rimasti 3 anni lì. Poi non so cosa è successo e l'ha preso tutto quanto, come ti si chiama, non me la metto più. Giancarlo, infatti, ha preso tutto lui e ho preso e me ne sono andato all'Avisi. Dall'Avisi sono durato poco e da lì sono andato via al coso. Direttamente un po' sono rimasto alla Croce Rossa e poi sono andato al 118, mi hanno chiamato loro stesso. Ma al 118 tu cos'è qui? All'ospedale? Quelli all'ospedale. Cioè tu lavoravi con la cooperativa 2000? No, ero assunto proprio come coso, proprio dal 118 proprio. E che ti sei andato? Voi di 8 anni a Rugrido che mi andando giù, e cosa vi fate più? Poi ero sempre a coso, che la sera non riposavo mai, e quando andavo a trovare non mangiavo, ma ci affavo sempre un po' carico dormito. Ma io so che all'ospedale il 118 lo fa la cooperativa 2000, non ricordo come si chiama, lo fa solo quella, cioè chi lavora al 118 lavora con quella cooperativa e basta. Sì, è così, però a me mi avevano preso da proprio il 118, mi aveva preso. Mi hanno detto, dice, vuoi andare con la cooperativa o vuoi rimanere con noi? No, rimango con voi come volontario. Ho detto, rimango con voi. Infatti ci avevo scritto nella scritta proprio 118 volontario nel coso. Invece gli altri ci avevano scritto c'avevano scritto 118. A 118 ce l'avevo scritto anche io dietro. 118 e poi ci avevo scritto autista soccorritore davanti, c'era gruppo sanguigno della mia divisa, c'era scritto 118, autista soccorritore, contatto di di BMS, BMSD, corsi di trauma, primo soccorso, eccetera, eccetera. Io l'ho fatto tutto. No, io guidavo solo, cosa di dentro l'ambulanza non facevo nulla, io ero solo autista e basta. Mi chiamavano per portare i pazienti da un ospedale all'altro, un sacco di cose, di quelle cose lì ho fatto. No, io facevo le urgenze e quando arrivavamo sul posto intervenivo anch'io che ero autista, intervenivo anch'io, lavoravo come tutti gli altri. Eravamo un'equipe, ci eravamo solitamente in due o in tre al massimo. E niente, lavoravamo tutti insieme, capito? C'era molto, io ero capo squadra, solo allo sguardo noi capivamo per quello che dovevamo fare. Vabbè, dai, già, a me mi sacciamenti. Ci sentiamo alle prossime, ok? Ciao Gianni, stammi bene. Buona cena e tutto quanto. E ciao agli ascoltoni, ok? Ciao a tutti. Ciao, non me la conto gratuitamente. E così, me la già mendi. Un po' garido, andate, va. Ci sentiamo già, ciao. Ciao, buona cena. Ce ne basta qualcuno, sono tutti tre.